You'll listen to oxygen for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is oxygen. Tutti i sabati tutta la notte, dalle 23. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is oxygen. This is oxygen. You're listening to oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is oxygen. Un saluto a tutte e a tutti, questa è Oxygen, in voce con voi Amptech. Vi ricordo la trasmissione di musica elettronica e sperimentale di Radio Samarcanda Digital Network. Abbiamo aperto la trasmissione con una traccia 2026 appena rilasciata da Wata Igarashi come singolo, che si chiama Mineral. È già partita sotto la mia voce anche un'altra novità, Sargeon Girl, e la traccia, sempre un singolo, si chiama Silken Place. Thank you. e vi ricordo che siete all'ascolto di Oxygen dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network. E dopo Sargeon Girl andiamo verso un progetto un po' particolare. Si tratta del progetto di un sassofonista che si chiama Aurélien Nafrichou, non so se l'ho pronunciato correttamente, che si cimenta con atmosfere in bilico fra minimalismo e ambient music. Un prodotto che in particolare, il titolo dell'album è Cosmogonia Yom. Listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Questo era Cosmogonia, il nuovo disco di Yom, ma andiamo avanti sempre con dischi usciti nelle ultime settimane con Speedy J, che col suo progetto Stour continua a sfornare extended play abbastanza sperimentali. Questo lavoro si intitola semplicemente Stour 2, Speedy J. For your ears, for your heart, for your soul, for your brain, this is Oxygen. Thank you.

E questo era il secondo extended play a nome Stur, rilasciato da Speedy J nei primi mesi del 2026, un progetto radicalmente più sperimentale da quello che questo produttore ci propone. Ricordiamo, Speedy J è una figura storica della scena europea, della techno degli anni 90, è uno dei più importanti e più conosciuti produttori e DJ in circolazione. Ma andiamo avanti con Leif Knowles, un artista britannico che ha appena prodotto un lavoro che si chiama Collide, pubblicato da AD93. Thank you. vi ricordo che siete all'ascolto di Oxygen, in voce con voi Amptech. Questo era Leif Knowles con questo lavoro che si chiama Collide. Ma andiamo avanti con un artista che abbiamo spesso proposto dalle nostre frequenze. Si tratta di Shakathlon, un autore abbastanza trasversale che si muove attraverso contaminazioni che vanno dalla musica orientale al minimalismo. Il suo vero nome è Sam Shackleton, il nuovo lavoro 2026 che troviamo estremamente interessante si chiama Euphoria Bound. Oxygen. We'll be right back. You're listening to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Siete sempre all'ascolto di Oxygen dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network. Vi ricordo anche il sito della radio www.radiosamarcanda.it, dal quale potete ascoltare lo streaming della trasmissione, che è possibile chiaramente fruire anche tramite DAB, ovvero la nuova tecnologia di digitale terrestre che soppianterà l'FM nei prossimi anni, che è già attiva in Italia, è già presente in vari modelli di autovettura che sono stati omologati dopo il 2018. Ma andiamo avanti con una produttrice che si fa chiamare Xylitol, che abbiamo conosciuto in passato per alcune produzioni su Planet Mu, che rilascia un nuovo singolo che si chiama Folly. oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is oxygen. E questa è sempre Oxygen, in voce con voi Amptech. Vi ricordo l'altro sito di riferimento di questa trasmissione, che è www.musicamachina.com, in cui troverete materiale aggiuntivo e collaterale a quello che trasmettiamo direttamente in etere. Ma andiamo avanti. Quella che abbiamo ascoltato era Xylitol, ovvero Catherine Beckhouse, una produttrice decisamente interessante che si muove tra ambient, drum and bass, che abbiamo ascoltato grazie a Mike Paradinas, ovvero Planet Moo. Ma andiamo avanti con un altro produttore britannico che abbiamo avuto occasione di ascoltare varie volte. Si tratta di James Clements, che si fa chiamare normalmente ASC, e che ha realizzato un remix per conto di Monoparts di una traccia pubblicata appunto proprio poche settimane fa, Abandoned Woods ASC Remix. E questo era il remix che ASC, cioè James Clements, ha realizzato per Monoparts. Andiamo avanti, tornando nel 2025, con alcuni lavori decisamente interessanti che dovremmo approfondire, quindi cogliamo questa occasione. Sempre rimaniamo in Gran Bretagna con John Cannane, un produttore che si muove tra Londra e l'Essex, che ha rilasciato nel 2025 un disco decisamente interessante che si chiama Alterations in Chiral Form, prodotto dalla DGOICN Music, che è proprio l'etichetta di questo produttore, che infatti si fa chiamare con un nome abbastanza complicato, DGOHN, per dirlo in italiano DGOHN, Alterations in Chiral Form. Thank you. e dopo DGOHN andiamo avanti con un altro produttore che abbiamo conosciuto nel perimetro della glitch music. Si tratta di Vladislav Delay, che realizza, pubblica nel 2026 il suo nuovo lavoro, un disco con 5 tracce, quindi possiamo considerarlo un extended play, che si intitola In a Lawless World There Is Strength in Numbers. Vladislav Delay. You listen to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Thank you.

E vi ricordo che state ascoltando Oxygen in compagnia di Amptech dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network. Abbiamo ascoltato due brani dal nuovo lavoro di Vladislav Delay, che resta rigorosamente sperimentale, abbastanza ostico per certi versi, ma ci spostiamo verso qualcosa di completamente diverso, sempre un disco uscito da poche settimane, si intitola Overtime, e poi su Likewise Records, ed è firmato da Marge Crane e Sam Weber, che però si fa chiamare username. Andiamo avanti quindi con Overtime. Questo era Overtime di Marge Crane e Sam Weber. Andiamo avanti con un altro disco uscito però nel 2025. Si tratta di un artista importante che noi seguiamo da tempo, che si fa chiamare Proc Fiscal, il cui vero nome però è Joe Powers. Il lavoro, l'album 2025, si chiama Canticle Hard Post, Proc Fiscal. We'll be right back. Sarà Proc Fiscal, che continua con le sue atmosfere high tech, molto digitale, fatti di tagli e montaggi. Andiamo avanti con un autore che abbiamo avuto occasione di incontrare in che passato. Si tratta di un produttore decisamente minimalista, si fa chiamare Dialect, il cui vero nome è Andrew P.M. Hunt. Anche lui è un autore, un produttore britannico che ha fatto uscire proprio recentemente, 2026, un extended play con 6 brani che si chiama Full Serpent. Listen to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Yeah. E questo era Dialect, dal suo lavoro Full Serpent, un lavoro come sempre minimalista, uscito su RVNG Records. Ma andiamo avanti con un altro lavoro che è invece targato 2025, ancora attingiamo dal serbatoio dei dischi usciti in quel periodo, perché comunque il 2026 ancora non ci ha offerto un numero tale di novità che ci permette di riempire la nostra trasmissione. Meteorites, il titolo del lavoro 2025, pubblicato da Analogical Force, James Shindra. Don't. Vi ricordo che state ascoltando Oxygen, James Shinra, il lavoro che si chiama Meteorites 2025, un altro lavoro sempre pubblicato lo scorso anno ma che ascoltiamo ancora volentieri perché si tratta di uno dei dischi più intriganti usciti nel 2025, è quello di Client Zero Three, un lavoro che si chiama Test Bed Assembly. Thank you. Oxygen. Questo era Client 03 da Test Bed Assembly del 2025. Andiamo avanti con un altro lavoro dell'anno scorso. Si tratta di Cherelle, il vero nome è Cherelle Camille Thomas, e il disco si intitolava With a Vengeance. e questo era Cherelle with a Vengeance. E torniamo su un'etichetta che abbiamo avuto occasione spesso di proporre, A Strangely Isolated Place. Il lavoro si intitola Journey Beyond ed è firmato da Mikkel Rev. You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. e siete sempre all'ascolto di Oxygen in compagnia di Amptech. Abbiamo ascoltato un brano dal lavoro di Mikkel Rev, il cui vero nome è Patrick Eriksson, direttamente da Stoccolma, e che ha pubblicato questo lavoro nel 2025, Journey Beyond, per l'etichetta A Strangely Isolated Place, un'etichetta che abbiamo spesso incontrato nelle nostre selezioni. Andiamo avanti con un gruppo storico della scena britannica, si tratta dei Future Sound of London, che nel loro caotico far uscire ristampe, inediti, tracce mai realizzate e pubblicate, ma magari scritte 15, 20, 25 anni fa, creano un caos produttivo che è difficile in qualche modo seguire. Il lavoro che vi propongo si chiama Multiple Angled Distortions, The Future Sound of London. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E vi ricordo che state ascoltando Oxygen. Questi erano i Future Sound of London, uno dei tanti innumerevoli dischi usciti sul loro portale lo scorso anno. Andiamo avanti invece con un'ultima novità 2026, si tratta di un remix fatto da PDQB, un autore che spesso abbiamo occasione di ascoltare nelle nostre frequenze, che in realtà si chiama Sascha Dornhofer. ma ascoltiamo la traccia che si chiama Frontera Extraterrestre. Listen to Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Turn up the volume. The volume.